La nostra proposta è quella di non perdere mai il contatto con la storia, con la storia recente, con la storia delle guerre che ci hanno visto protagonisti. Ormai la guerra del 99 in Jugoslavia sembra un fatto dimenticato, ma appunto dobbiamo tenere ben salde le radici della memoria, sia con la storia più remota. E in particolare noi abbiamo realizzato un volantino dossier che verrà distribuito da alcuni volontari nelle italiane il 4 novembre, proprio contestualmente alle varie parate militari, alle varie celebrazioni della nostra potenza armata. In questo volantino non c'è nessun messaggio aggressivo, rabbioso o di odio, ma c'è semplicemente un promemoria, e cioè un ricordo del fatto che la festa del 4 novembre fu una ricorrenza istituita dal fascismo per trasformare le vittime della Prima Guerra Mondiale, che è stata una guerra spietata e non voluta dal popolo, in eroi coraggiosi che si immolavano per la patria. E i monumenti ai caduti sono stati costruiti in quel periodo proprio per il bisogno di una propaganda, per il bisogno di un'esaltazione della guerra che poi trascinasse il popolo italiano nella Seconda Guerra Mondiale. Pegnanti fu chiesto di celebrare le forze armate con tutta una serie di iniziative. Quello, un'altra cosa che non si ricorda è che la Prima Guerra Mondiale è costata centinaia di migliaia di vittime, vittime che potevano essere evitate perché l'Austria ha proposto un trattato di non belligeranza, e ciononostante noi abbiamo scelto lo stesso di imbarcarci in quella che poi è stata definita un'avventura senza ritorno, un'inutile strage. E noi semplicemente, a beneficio dei cittadini, degli insegnanti, delle scuole, di tutti quelli che passeranno per strada e vedranno queste parate, noi semplicemente vogliamo ricordare con numeri che la Prima Guerra Mondiale è costata all'Italia 650.000 morti e 1 milione di mutilati e di feriti, che sono stati molti di più di quanti erano gli abitanti di Trento e Trieste. Perché dico Trento e Trieste? Perché noi con quella guerra abbiamo conquistato, abbiamo ottenuto Trento e Trieste. Però c'è un piccolo particolare, che quei territori c'erano già stati concessi dall'Austria in cambio della non belligeranza. Quindi noi senza fare niente abbiamo potuto salvare la vita di 650.000 persone, di 650.000 cittadini italiani, appunto scegliendo la strada della pace, che a volte viene descritto come un'utopia, irreale, una cosa astratta, una cosa per ragazzine, figli dei fiori e hippie, mentre invece a volte è l'unica scelta politica praticabile per tutelare un popolo. Oggi l'uso delle forze armate viene disposto in base a un documento che qualcuno si è inventato, che si chiama il nuovo modello di difesa, che nessuno ha mai discusso, dibattuto in Parlamento, non è mai stato presentato, spiegato ai cittadini per dire che cosa ne pensavano, semplicemente una prassi, un'ideologia, un modo di operare, una nuova teoria che si è affermata negli ambienti militari. Questo nuovo modello di difesa teorizza la cosiddetta guerra di proiezione, che non è più la guerra di difesa del territorio. Oggi con le nuove guerre non si difendono più gli interessi, non si difendono più gli abitanti di una nazione e il territorio, quindi la cosiddetta guerra di difesa, ma si difendono gli interessi di una nazione, e siccome noi possiamo avere interessi anche all'estero, vengono in mente come prima cosa gli interessi petroliferi, ma ci sono tantissimi altri tipi di interessi, allora noi andiamo a fare le guerre all'estero per difendere i nostri interessi. Questo in sintesi è il succo della guerra di proiezione, una guerra che se ci fosse stato un referendum, un'assemblea, una consultazione pubblica, noi avremmo anche potuto accettare, però che di fatto questa nuova visione della guerra è stata imposta dalle autorità militari e politiche.